Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Può darsi che io non sappia cosa dico. Scegliendoti una donna per amico. Ma il mio mestiere è vivere la vita. Ma il mio mestiere è vivere la vita. Che sia di tutti i giorni sconosciuta. Ti amo forte, debole compagna. Che qualche volta impara, a volte insegna. Grazie. Meno male che non sono loro che cantano a Sanremo, con tutto il rispetto, Carlo Conti e Maria De Filippi, che così sono ingegnati in questa performance con una canzone di Battisti, Una donna per amico. Evidentemente però la coppia funziona, perché sì, c'è stato uno share un po' inferiore a quello della prima serata, però anche ieri è andata piuttosto bene, e ci collegheremo naturalmente anche stasera, visto che siamo nel pieno del festival. Stasera è la terza serata, quella dedicata alle cover, dove i cantanti in gara canteranno le grandi canzoni reinterpretandole, insomma. E poi ci occuperemo ovviamente, come sempre con Effetto Notte, anche di cose molto serie. Capiremo un po' nei dettagli che incontro c'è stato oggi tra il Presidente del Consiglio Gentiloni e la Prima Ministra britannica May a Londra. Hanno parlato soprattutto di Brexit e di immigrazione. Domani, tra l'altro, ha annunciato Gentiloni, ci sarà un Consiglio dei Ministri in cui si parlerà di nuove misure per l'immigrazione. E poi c'è stato un nuovo caso di meningite, purtroppo un decesso di un insegnante a Milano di 54 anni, e quindi torneremo a parlare di questo tema che preoccupa, anche se appunto non bisogna fare allarmismi, ma cercheremo di capire con il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità un po' la misura del problema e che cosa bisogna fare, come dobbiamo comportarci, cioè sono casi fisiologici, come si dice, c'è un aumento dei casi, insomma. Poi se anche su questo volete fare domande, osservazioni eccetera, sui vari temi lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte a vostra disposizione giorno e notte, oppure il numero per i messaggi che è 349-238-6666. Io intanto direi che possiamo partire, prima di approfondire questi temi, come sempre con il riassunto della giornata. Londra, Gentiloni incontra la prima ministra britannica May e sulla Brexit dice: non vogliamo un negoziato distruttivo, e ha definito irrealistica la prospettiva che al vertice di Taormina ci sia Putin, confermata intanto l'amicizia con la Gran Bretagna. Le turbolenze della giunta romana, l'assessore Berdini verso l'uscita di scena, la sindaca Raggi, dopo aver respinto ieri con riserva le dimissioni, è in cerca di un sostituto. Lavoro, il presidente dell'INPS Boeri spiega le nuove visite fiscali, 7 ore di reperibilità per tutti i lavoratori. Stati Uniti, tempesta di neve a New York, bloccati migliaia di voli, 50 milioni di interessati dalla bufera in tutta la costa est americana. Meningite, è morta a Milano un'insegnante di 54 anni ricoverata ieri, l'assessore assicura interventi per l'incolumità degli studenti. Nel 2016 in Italia sono stati segnalati 178 casi di meningite da meningococco, a Effetto Notte poi ospite un virologo dell'IS. Bologna scontra l'università, la polizia sgombra la biblioteca occupata. Trapianti, è morto il giovane che ricevette il cuore di Nicholas Green, Reginald Green, dice il padre del bambino che fu ucciso, vi ricordate, sulla Salerno Reggio Calabria anni fa, è come perdere un familiare. Tecnologia, addio al touchscreen, telefoni e PC saranno controllati da gesti grazie a una nuova generazione di LED. E per Sanremo, terza serata per il festival, in primo piano ci saranno le cover, super ospiti Mika e la cantautrice italo-americana LP. Vogliamo sentire subito Carlo Conti? Lo vediamo, sta presentando, no, adesso collegamento con una nuova proposta all'esterno. Niente, allora iniziamo con le cose più prosaiche. Partiamo quindi dall'incontro di oggi a Londra tra il Presidente del Consiglio Gentiloni e la Prima Ministra britannica May. Gentiloni ha parlato di Brexit, auspicando un negoziato non distruttivo con l'Unione Europea, ha definito irrealistica la prospettiva che al vertice di Taormina ci sia Putin, e della Russia ha parlato anche la Prima Ministra May, chiedendo alla comunità internazionale di non sospendere le sanzioni a Mosca. Poi tra poco ne parleremo andando più nel dettaglio. Intanto a Berlino c'è stata la visita del Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi alla cancelliera Angela Merkel per parlare di euro e strategie contro gli attacchi dentro e fuori l'Unione Europea. La Merkel ha voluto chiarire un equivoco sul concetto dell'Europa a diverse velocità, ha detto: io non sono interessata a che nell'Eurozona vi siano diverse velocità, l'Eurozona, ha detto, deve rimanere nel suo complesso insieme, e questo ha detto, insomma, rispondendo nella conferenza stampa dopo l'incontro con Mario Draghi. E ora diciamo le turbolenze di Roma, la crisi del Campidoglio tra le proteste del PD che invita la sindaca a occuparsi dei problemi della città e l'accelerazione sulla sostituzione dell'assessore Berdini. Le sue dimissioni ieri sono state respinte con riserva, ma in Campidoglio sta già circolando il nome del possibile successore di Paolo Berdini, l'assessore all'urbanistica finito al centro della bufera dopo aver definito la sindaca Raggi impreparata e circondata da una banda. Si tratta dell'urbanista Emanuele Montini, che in giornata avrebbe avuto un colloquio con la prima cittadina, storico collaboratore del Movimento 5 Stelle e vicino al vice sindaco Frongia. Montini oggi è capo staff dell'assessore alla scuola Baldassarre, mentre in passato era stato collaboratore della giunta Rutelli e coordinatore nazionale di Italia Nostra. Già a dicembre, dopo i contrasti interni sullo stadio della Roma, era stata ventilata l'ipotesi che potesse essere proprio lui a prendere il posto di Berdini, sul cui operato nel frattempo la sindaca Raggi ha deciso di avviare una verifica con gli altri assessori e con i consiglieri comunali pentastellati. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. In realtà, secondo i rumors degli ultimi minuti, pare che la candidatura di Montini sia già tramontata e che si stia facendo il nome di altri candidati. E allora di questo parleremo tra poco nel corso di Effetto Notte. Sempre che la voce mi regga, questa è la terza bronchite da ottobre. Adesso restiamo sul Movimento 5 Stelle. È stata chiusa l'indagine delle firme false a Palermo. Tra i 14 indagati anche i parlamentari Nuti, Di Vita e Mannino. Sono 14 gli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulle firme false depositate dai 5 Stelle a sostegno delle candidature per le comunali del 2012 a Palermo. La procura ha chiuso le indagini e si accinge a chiedere il rinvio a giudizio. Il procuratore aggiunto Dino Petralì e il sostituto Claudia Ferrari contestano la violazione di una legge regionale del 1960 che recepisce il testo unico nazionale in materia elettorale. Tra i 14 indagati il deputato nazionale Riccardo Nuti, che nel 2012 era candidato sindaco, e le parlamentari Giulia Di Vita e Claudia Mannino. A 11 indagati PM contestano la falsificazione materiale delle firme. A Nuti si imputa invece l'avere fatto uso delle sottoscrizioni ricopiate. Secondo la procura, Nuti e un gruppo ristretto di attivisti, dopo essersi accorti che per un errore di compilazione le firme raccolte erano inutilizzabili ed era quindi a rischio la presentazione delle candidature, avrebbero deciso di ricopiare dalle originali le sottoscrizioni ricevute per correggere il vizio di forma. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. E restando sulla politica nazionale, sono arrivate in questo momento, sono state pubblicate le motivazioni, è arrivata adesso la notizia del perché la Consulta abbia bocciato il ballottaggio dell'Italicum. Si legge così in queste motivazioni: le modalità di attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio determinano una lesione, perché per come congegnato l'Italicum il premio attribuito al secondo turno resta un premio di maggioranza e non diventa un premio di governabilità. Per questo tale premio, scrive la Consulta, deve essere vincolato all'esigenza costituzionale di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell'assemblea elettiva e l'eguaglianza del voto. Questo allora scrive la Corte sulle motivazioni per aver bocciato il ballottaggio nell'Italicum. Parliamo adesso di lavoro, perché il presidente dell'INPS, Boeri, spiega le nuove visite fiscali e chiede norme più severe, 7 ore di reperibilità per tutti i lavoratori. Basta differenze tra pubblico e privato, dice il presidente dell'INPS Tito Boeri. Norme più severe per il controllo dei furbetti, non del cartellino, ma del termometro. Per esempio le fasce orarie di reperibilità credo che dovrebbero essere armonizzate. Un'ipotesi che andrebbe a colpire questa volta più i lavoratori privati che quelli della pubblica amministrazione, perché oggi in caso di malattia vigono regole diverse. 4 ore giornaliere di obbligo a casa per i lavoratori privati e 7 per quelli pubblici. Ma Boeri non si ferma qui. L'INPS è pronto a fare controlli anche sulle malattie dei dipendenti pubblici finora affidati alle ASL, ma, dice, servono risorse aggiuntive. Nel mirino anche l'utilizzo della legge 104, quella che prevede permessi per l'assistenza di familiari disabili. Ci sono differenze molto forti che fanno pensare a potenziali forme di abuso, dice Boeri, ma su questo dai sindacati la replica è immediata. Bisognerebbe farsi domande sulle differenze di genere, dice il segretario generale della CGIL Susanna Camusso. Nel pubblico lavora una percentuale maggiore di donne, sulle quali ricade tutto il lavoro di assistenza. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è un nuovo passo avanti sulla lotta all'evasione. Nel 2016 sono stati recuperati 19 miliardi. Il 2016 è stato un anno record per il fisco. La lotta all'evasione ha infatti portato nelle casse dello Stato 19 miliardi di euro contro i 14,9 recuperati nel 2015. E il gettito delle entrate, secondo le prime stime, ha superato i 450 miliardi rispetto ai 436 del 2015 e ai 419 del 2014. Il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan loda così i risultati dell'Agenzia delle Entrate e spiega che tutto è anche frutto del cambiamento culturale in atto innescato dalle riforme del governo. Un esecutivo, dice il ministro, che non strizza l'occhio agli evasori. Il governo non strizza gli occhi agli evasori. Il governo casomai strizza gli occhi ai contribuenti, alle imprese oneste, li aiuta ad adempiere, a non sbagliare, li invita a correggere eventuali errori, senza un approccio inutilmente punitivo. Padoan rivendica anche i risultati raggiunti contro l'odiosa evasione internazionale, tanto che la voluntary disclosure ha consentito all'Agenzia delle Entrate di incassare 4,1 miliardi e annuncia che al G7 finanziario di Bari, in agenda a maggio, si discuterà anche della tassazione delle nuove forme di impresa nate dall'economia digitale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso all'estero, con questa tempesta di neve che ha colpito gli Stati Uniti, da New York al Massachusetts, dalla Pennsylvania al Maine, al New Jersey, al Connecticut, la costa orientale degli Stati Uniti, e nella morsa della neve una violenta bufera ha imbiancato le città dalle prime ore della mattina, e il maltempo ha interessato circa 50 milioni di persone, fortissimi disagi per il traffico aereo con oltre 3.000 voli già cancellati e scuole e uffici chiusi. E adesso in Francia del Nord, per un incendio che si è sviluppato in una centrale nucleare, però pare che non vi sia nessun pericolo di radiazioni. Allarme rientrato. Alle 11 la prefettura della Normandia ha annunciato che l'incidente era risolto e che la situazione era sotto controllo. L'allarme era scattato poco prima delle 10, quando c'era stato un inizio di incendio in una centralina elettrica della centrale nucleare di Flamanville, sulla Manica, nei pressi di Cherbourg. Le autorità EDF, il gruppo energetico che gestisce gli impianti atomici francesi, si erano subito affrettati a spiegare che il luogo dell'incidente non era in zona nucleare, che quindi non c'era alcun rischio di fughe radioattive e che l'incendio era stato rapidamente spento dal personale della centrale. Per precauzione, uno dei due reattori del sito è stato comunque fermato e scollegato dalla rete. I due reattori di Flamanville, in funzione dalla metà degli anni Ottanta, forniscono il 4,5% dell'energia atomica francese, che a sua volta garantisce il 75% della produzione elettrica del paese. Sempre a Flamanville è in fase di ultimazione l'EPR, cioè il nuovo reattore di terza generazione che dovrebbe entrare in funzione a fine 2018, con 6 anni di ritardo e un costo triplicato a oltre 10 miliardi. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. E ora di nuovo in Italia. Quelli che sentite sono i tafferugli avvenuti oggi all'interno dell'Università di Bologna, dove degli attivisti e dei collettivi universitari avevano occupato dal primo pomeriggio la biblioteca di discipline umanistiche nell'ambito di una protesta che prosegue da alcuni giorni contro i tornelli all'ingresso. La polizia, chiamata all'Ateneo, è intervenuta in assetto antisommossa per far sgomberare gli occupanti dall'edificio. Ci sono state cariche all'interno e i manifestanti parlano di feriti tra le loro fila. Adesso parliamo dell'autorità anticorruzione che ha avviato accertamenti sull'assegnazione dei fondi Expo stanziati per la giustizia milanese. C'è qualcosa infatti che non quadra. La scritta "udienza facile" lampeggia in vari angoli del palazzo, ma le sue promesse d'aiuto, innanzitutto per orientarsi tra i marmi del Piacentini, si infrangono davanti a monitor spenti. 170 quelli comprati con fondi Expo, ma di fatto inutilizzati, tanto che ora l'autorità anticorruzione vuole vederci chiaro sull'intero finanziamento per la giustizia milanese. Su richiesta dell'autority presieduta da Raffaele Cantone, la Guardia di Finanza ha infatti acquisito atti sulle gare d'appalto per 16 milioni destinati a servizi telematici alla vigilia dell'esposizione universale. Missione insolita per il nucleo anticorruzione, che stavolta deve verificare la correttezza di quanto avvenuto all'interno dello stesso tribunale, all'epoca diretto da Livia Pomodoro, nell'assegnazione insieme al comune dei fondi senza gare d'appalto ma con affidamenti diretti. Dopo che 10 dei 16 milioni di fondi furono assegnati così, il meccanismo dell'assegnazione diretta fu sospeso. La denuncia, partita dal blog dei cronisti giudiziari del Palazzo di Giustizia, fu poi girata dalla Corte d'Appello e dalla Procura Generale all'ANAC. E così ora l'autorità anticorruzione vuole capire. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vi dicevo di questo nuovo caso di meningite, ancora una vittima in Lombardia. Oggi è morta all'ospedale San Paolo di Milano un'insegnante di 54 anni che era stata ricoverata d'urgenza ieri, già sottoposta a profilassi antibiotica a diverse persone a scuola. Nel 2016 in Italia sono stati segnalati 178 casi di meningite da meningococco, la stessa forma aggressiva e contagiosa che ha colpito l'insegnante, con 17 decessi e un'incidenza in lieve aumento rispetto al triennio 2012-2014. Poi però, come vi anticipavo, ne parleremo più tardi col direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Su questo vedo già diversi vostri messaggi, domande le girerò tra poco. Ed è morto, circondato dalla sua famiglia naturale, dalla sua seconda famiglia, quella dell'ospedale Bambin Gesù di Roma, Andrea Mongiardo, il giovane che, vi ricordate, 22 anni fa ricevette il cuore di Nicholas Green, il bimbo americano ucciso mentre era in vacanza in Italia. Aveva 37 anni, era stato colpito 4 anni fa da un linfoma. Il padre di Nicholas Green, Regina, l'ha detto: è come perdere un familiare. Una notizia quasi di futuristica, ma in realtà sembra cosa quasi già fatta: i monitor touchscreen presto saranno un lontano ricordo e gli smartphone, tablet e PC potranno essere controllati senza il tocco delle dita, ma con il semplice gesto del braccio o di una penna laser. Potranno essere ricaricati dalla luce presente nell'ambiente, i loro schermi sapranno conversare con altri schermi e rendere realtà quella che fino a qualche anno fa poteva sembrare fantascienza. È una nuova generazione di LED in grado di emettere e intercettare la luce nello stesso tempo, a descriverli sulla rivista Science i ricercatori dell'Università dell'Illinois. Adesso, a parte magari per persone che hanno delle disabilità, ci si chiede perché queste cose neanche più si toccano adesso, basta un gesto qualsiasi del braccio e della mano che capiscono cosa vogliamo fare. Comunque, per chiudere, tornando a cose diciamo più leggere, più popolari, Sanremo, terza serata per il festival, in primo piano ci saranno appunto le cover e tra i super ospiti Mika e la cantautrice italo-americana LP. Poi ci collegheremo direttamente con il festival, direi che possiamo temporaneamente, molto brevemente, lasciarci per aggiornare chi sta viaggiando. Intanto, dicevo, vedo già queste domande sulla meningite. Invece un altro ascoltatore dice: quello che non è riuscito alla riforma costituzionale lo vuole fare Boeri, dice un po' preoccupato un ascoltatore. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci qui di nuovo insieme, le notizie ve lo ricordate poco fa in questo riassunto della giornata che precede come sempre poi gli approfondimenti con gli ospiti. Tra poco vi ricordo però i fatti principali, perché qualcuno non accende puntualmente alle 21, e poi cominceremo a parlare dei vari temi. Scrive un altro ascoltatore: numericamente in Italia le morti per meningite sono per fortuna infinitamente poche, non bisogna però sottovalutare, e vi dicevo, su questo argomento andremo tra poco. Però occupiamoci prima, invece, tra pochissimo, di ambito internazionale, soprattutto europeo. Vogliamo sentire un attimo Conti e De Filippi seduti sugli scalini dell'Ariston? Se il mio mito era anche Topo Gigio, il mago Zurlì. Te lo guardavi lo Zecchino d'Oro? Sì. Ah, perché festeggiano anche 60 anni dello Zecchino d'Oro questa sera. 60 anni e non li dimostra. Bene, poi torneremo anche allo Zecchino d'Oro, adesso ci aspetta tra poco un ospite più serio, più impegnativo. Intanto vi ricordo quali sono i fatti principali. Consulta, la legge elettorale garantisca la maggioranza omogenea, la mossa di Renzi, pronto le dimissioni e al congresso subito. Sono state pubblicate le motivazioni, depositate le motivazioni della consulta per aver bocciato il ballottaggio dell'Italicum. E poi, per quanto riguarda Roma, l'assessore Berdini è un passo dall'addio, Raggi avrebbe già sostituito l'assessore. In realtà si parlava di Montini fino a poco fa, adesso parrebbe non essere più il suo nome, sarebbe stato comunque Berdini processato dai 5 Stelle. Poi Gentiloni a Londra, è irrealistico invitare Putin al G7, dice Draghi, invece è andato a visitare Angela Merkel, ne parleremo tra pochissimi istanti. Protesta per i tornelli, scontri all'Università di Bologna, la polizia sgombera gli occupanti, sgombera la biblioteca, i manifestanti dicono tra noi anche feriti. E poi il presidente dell'INPS Boeri, che chiede regole più severe per le visite fiscali, dice la reperibilità deve essere di 7 ore per tutti, sia lavoratori pubblici che privati. E poi questo caso di meningite, un nuovo caso, un'insegnante morta a Milano, un'insegnante di 54 anni, l'assessore lombardo assicura profilassi nella scuola e nel 2016 sono stati 178 i casi contagiosi e 17 i decessi. E poi Sanremo, ne abbiamo appena parlato, mica tra i super ospiti di questa terza serata dedicata soprattutto alle cover. Vogliamo sentire questa bimba che canta dello Zecchino d'Oro? Come non ricordare il valzer del moscerino, Sergio Nava, tu te lo ricordi? Forse lo cantavi anche tu? Ma io personalmente abolirei Sanremo. No, quindi... no, è così che già alcuni ascoltatori, perché parli di Sanremo eccetera, ma io devo parlare un po' dell'attualità, di quello che succede durante il giorno, delle cose anche più seguite o più da seguire. Comunque, con Sergio Nava invece adesso parliamo di cose serissime, parliamo di... dell'incontro che c'è stato oggi tra il Presidente del Consiglio Gentiloni e la Prima Ministra britannica May a Londra, Downing Street. Hanno parlato soprattutto di Brexit, di immigrazione, di austerità, di un'Europa a due velocità. Poi cercheremo anche di chiarire questo concetto, perché ho visto prima una dichiarazione di Angela Merkel che dice no, forse io sono stata fraintesa, non intendevo dire che c'è chi va avanti, chi va indietro. Poi ce lo chiarisci tu, Sergio. Però intanto sentirei Gentiloni con questa definizione piuttosto bizzarra, in negativo dell'Europa, dicendo non è questo. Sentiamolo. L'Unione Europea non è un microbo, è la più grande superpotenza commerciale del mondo. Penso che abbia lo spazio, la possibilità, l'opportunità per svolgere un ruolo crescente a livello internazionale. Ha detto insomma non è un microbo. E sentiamo invece a proposito della Brexit che cosa ha dichiarato. Sappiamo che non sarà un negoziato semplice, sappiamo anche che dobbiamo affrontarlo e questo sarà l'atteggiamento italiano in modo amichevole e costruttivo. Non abbiamo nessun interesse a un negoziato distruttivo tra l'Unione Europea e il Regno Unito. Ecco, diciamo, questa è un po' la sintesi di quello che si sono detti sulla Brexit e di quello che ha voluto dire da parte dell'Italia e dell'Europa, no, Gentiloni, Sergio? Sì, ma sicuramente, insomma, sono, come dire, anche parole un po' di pragmatica, nel senso che Gentiloni, a differenza di Renzi, ci ha abituato a un tono molto più diplomatico nelle sue dichiarazioni. Sicuramente ha ragione quando dice che non abbiamo nessun interesse, ricordiamo solo che abbiamo circa 500-600.000 connazionali in Gran Bretagna e stanotte la Camera dei Comuni ha approvato un via libera al governo britannico per avviare appunto la Brexit, nel quale una mozione Labour dei laburisti all'opposizione è stata bocciata. In questa mozione si chiedeva anche di salvaguardare i diritti degli europei attualmente residenti in Gran Bretagna. Quindi con 500.000 e più di connazionali residenti oltre manica, non abbiamo nessun interesse sicuramente come paese Italia che sia un negoziato distruttivo e non lo ha neanche l'Europa, però di certo non sarà un negoziato facile e quindi insomma bisognerà, probabilmente sarà anche lungo, bisognerà vedere cosa, è molto difficile adesso prevedere cosa ne uscirà, a dire la verità. Sergio invece, sentiamo che cosa ha detto a proposito di questo concetto delle due velocità che adesso ci chiarisci, perché Angela Merkel, dicevo, in conferenza stampa dopo aver incontrato Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, ha detto ma io sono stata fraintesa, non voglio, voglio che tutti siamo dentro l'Eurozona, che procediamo tutti insieme. Sentiamo Gentiloni cosa ha detto. L'Europa ha già livelli diversi di integrazione, sappiamo che c'è l'Europa dell'euro e c'è un'Europa multi-currencies, ci sono alcuni paesi che aderiscono al trattato di Schengen e altri che non aderiscono. Penso che sia molto ragionevole, e da ministro degli esteri l'ho sostenuto da 2 o 3 anni, l'idea che nell'ambito dell'Unione Europea ci possano essere livelli diversi di integrazione. Quindi lui l'ha girata in senso positivo, dicendo sì, ci sono livelli diversi di integrazione, non è a due velocità, nel senso lasciamo la zavorra indietro e quelli che vanno avanti sono, allora, più forti. Bisogna dire questo, bisogna anche leggere le parole di Angela Merkel. Quando Angela Merkel ha parlato a Malta la settimana scorsa ha detto un'Europa a diverse velocità, poi per un misteriosi errore di traduzione, a due velocità italiani, perché l'ho sentito in tedesco, non in tedesco diceva verschiedenen, che è diverse, non è due, zwei. In italiano è diventato due velocità, tanto che poi appunto, però lei non ha mai parlato di due, ha parlato di più. È più interessante forse la dichiarazione che ha fatto stasera, dopo aver incontrato Draghi, quando ha detto, ha parlato di Eurozona, l'hai detto anche tu, non ha parlato di Unione Europea, ha parlato di Eurozona, cioè è come se avesse, non so se ispirata dall'incontro con Draghi, e quindi con l'incontro di Eurozona, non di Unione Europea, però è come se avesse voluto porre... Quindi di chi ha l'euro? Di sì, chi, ha voluto porre molto l'accento sulla compattezza di questo nocciolo di paesi che hanno l'Eurozona, che sono comunque la maggioranza dei paesi dell'Unione Europea, ma non sono tutti. Allo stesso tempo ha detto Angela Merkel stasera non vogliamo fare comunque club esclusivi, cioè se un paese è fuori da una cooperazione, da una velocità e vuole entrarci perché è disponibile, non lo teniamo fuori. Questo invece era un messaggio rivolto a Varsavia e ad altri paesi dell'est che, essendo per esempio come la Polonia fuori dall'euro, essendo come la Polonia e l'Ungheria particolarmente euroscettici con i governi che si ritrovano ultimamente, era un messaggio di tranquillizzazione. Attenzione, non vogliamo fare l'Europa di serie A né l'Europa di serie B. Questa Europa di serie A e questa Europa di serie B in realtà è un discorso che va avanti dall'allargamento, dall'inizio degli anni 2000, quando ci si è resi conto che a 26 prima 25, poi a 27, poi a 28 e ora di nuovo saremo 27, è diventato tutto abbastanza ingestibile. Quindi chi ci crede veramente, chi vuole veramente integrarsi, a mio parere anche, è giusto che abbia che vada oltre e non abbia la zavorra di chi invece dall'Europa magari vuole solo fondi, soldi o altro. Quindi è un discorso che sta tornando molto attualità, perché tra neanche due mesi, a fine marzo a Roma, dovrebbe uscire il disegno della nuova Europa. Speriamo esca. Speriamo che non sia uno scarabocchio. Senti Sergio, proprio abbiamo un minuto non di più, perché per parlare di immigrazione, se ne è occupato naturalmente Gentiloni, ne ha parlato con la May, dicendo in realtà una politica dell'immigrazione in Europa c'è solo dal 2015, grazie a Renzi che ha sollecitato questa cosa, perché sennò prima l'Europa era completamente cieca e sorda a questo argomento, e ha annunciato per domani un consiglio dei ministri in cui si parlerà di nuove regole, nuove misure per l'immigrazione, no? Beh, sicuramente Gentiloni non sbaglia, perché l'immigrazione, diciamo, fino effettivamente al 2014, ma forse anche 2015, sostanzialmente era una commissione europea che blandamente cercava di mettere assieme, dare una politica comune, e gli stati membri che dicevano ognuno s'arrangi. Su questo ha ragione. Interessante è anche aggiungere, tornando ad Angela Merkel, che stasera il governo tedesco, insieme ai Länder, diciamo alle regioni tedesche, ha deciso di un piano per accelerare i rimpatri, perché il discorso che si fa è dobbiamo insomma rimandare a casa i clandestini, teniamo le porte aperte, ma chi ne ha davvero diritto. Anche questo, in un anno elettorale tedesco così complicato, è interessante da seguire. Grazie Sergio Nava, e seguiremo. Grazie. Ora invece parliamo del movimentato, come possiamo dire, turbolento percorso della giunta romana, perché ieri abbiamo parlato di questo nuovo capitolo dell'assessore all'urbanistica Berdini, che in questa intervista che ha rilasciato, che è stata rubata, come vogliamo dire, da un giornalista della Stampa, aveva attaccato duramente la sindaca Raggi, dicendo che era impreparata, che era circondata da una corte dei miracoli e che lei e Romeo erano amanti. Poi ieri ci sono state questo incontro tra Raggi e Berdini, lui si è scusato, le ha detto in conferenza stampa, si è presentato con la cenere sul capo e con i ceci sotto le ginocchia, respingo le sue dimissioni, perché lui aveva detto vabbè mi dimetto, respingo le sue dimissioni, ma con riserva, e si era detto ieri questa riserva probabilmente perché ci sono, diciamo, dei tavoli tecnici, dei progetti che sono in divenire, delle valutazioni come quello dello stadio di Roma e di altre cose. Però oggi appariva un po' su tutti i titoli, dei primi titoli, le prime pagine dei media, che la sindaca avrebbe detto in una telefonata a Grillo levatemelo dai piedi. E fino a poco fa, in questo coinvolgo Manuela Perrone del Sole 24 Ore. Ciao cara Manuela. Pronto? Pronto, mi senti? Ecco, ora ti sento Manuela. Benissimo. Sì, dicevo, si faceva il nome di Montini non come possibile sostituto, sembrava quasi cosa fatta, invece mi sa che è stato scartato questo possibile candidato a sostituire Berdini? È nella rosa dei nomi che si stanno vagliando, ma non sarebbe in polla. È stato avvistato oggi in Campidoglio perché stanno facendo le valutazioni del caso, ma probabilmente non sarà lui il nome. Si sta anche valutando lo spacchettamento delle deleghe che erano affidate a Berdini, lavori pubblici e urbanistica. Una delle contestazioni mosse all'assessore era proprio quello di essersi concentrato sull'urbanistica, che poi era il suo settore, e di aver trascurato il capitolo lavori pubblici. In ogni caso, quello che emerge è che dopo la pubblicazione dell'audio del colloquio rubato, come dicevi tu, dal giornalista della Stampa, la convivenza in giunta appare praticamente impossibile, e quello che si vuole evitare è una vacatio, l'ennesima. Ricordiamo tutti il mese di settembre in cui per un mese intero Roma non ha avuto l'assessore al bilancio. E quindi gli stessi vertici del Movimento 5 Stelle, prima di formalizzare l'addio di Verdini, vogliono avere pronta la sostituzione. Tra l'altro, intanto mi pare che ci sia un certo malumore tra assessore e consiglieri del Movimento 5 Stelle lì a Roma, Manuela. Beh, sì. Diciamo che un po' di, per forza, no? Un po' di mal di pancia ci saranno. Poi le ultime notizie a proposito delle inchieste, che Raffaele Marra ha presentato una richiesta di scarcerazione in Cassazione dopo il no del riesame, mentre il legale di Salvatore Romeo, ex capo della segreteria di Virginia Raggi, anche lui indagato con la Raggi per la sua nomina, l'avvocato di Romeo avrebbe detto che le polizze erano una forma di investimento da 20 anni e nessuno dei beneficiari ne era a conoscenza. Ma questo sappiamo già, che c'erano queste polizze e che probabilmente erano a insaputa dei beneficiari, anche se è tutta una cosa ancora da chiarire, seppure non costituisce per il momento reato, no Manuela? Assolutamente sì, ha appunto sottolineato come fossero una forma abituale di investimento a basso rischio e a basso rendimento. Sono stati controllati i conti correnti, è tutto al vaglio della procura, però certo, mentre all'inizio la procura si era affrettata a far trapelare che non ci fossero, come dire, elementi tali da far presupporre reati, l'insistenza con cui comunque viene chiesto conto delle polizze durante gli ultimi interrogatori, sia soprattutto insomma anche ieri appunto a Salvatore Romeo, forse lascia trapelare che qualcosa di più potrebbe venire fuori, ma al momento non possiamo sapere di più. Vedo un dispaccio di agenzia di questi istanti dove Di Battista del Movimento 5 Stelle dice: lo stadio si fa perché il Movimento 5 Stelle mantiene le promesse ma non sia una minima parte del progetto di intero quartiere. Cioè, quando il Movimento dice che una cosa si fa, ma non posso tollerare che il progetto stadio sia una minima parte di un progetto di un enorme quartiere. Sono sicuro che si metteranno d'accordo e troveranno una soluzione. E noi attendiamo. Grazie Manuela Perrone del Sole 24 Ore. Buon Grazie lavoro. Grazie a voi. Ciao, buon Manuela. Lavoro. Ciao. Sentiamo Chiara le cover. Chiara canta Diamante a Sanremo. Di Zucchero questa canzone. Questa è la serata delle cover, dove i vari in gara, i vari big cantano grandi canzoni di altri interpreti. Suona Mauro Pagani, la PFM, un bel violino, eh. Bravissimo lui. Direi che ci possiamo lasciare molto brevemente, come sempre. Voi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Tra poco parleremo di meningite. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Tra pochissimo parleremo di meningite, però vogliamo dare ancora un ascolto a Sanremo? Serata delle cover, sta cantando Erma Metal. Dovrebbe essere Amara Terra Mia di Modugno questa, eh. Abbiamo colto probabilmente nella parte finale, immagino, molto vocale, ma sì, purtroppo, perché bellissima canzone di Modugno. Intanto vedo i vostri messaggi, proseguono la pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, anche diverse domande sulla meningite. Scrive Max: cara Roberta, fai benissimo a parlare anche di Sanremo, perché così tanti milioni di telespettatori lo rendono un evento popolare che fa notizie. Le notizie non devono per forza riguardare solo fatti tragici, giudiziari o politici, a cui stiamo dando fin da troppo tempo risorse mediatiche. Ti ringrazio per l'apprezzamento. Naturalmente parliamo un po' di tutto e adesso parleremo di un argomento molto serio. Però vi ricordo intanto quali sono i fatti principali della giornata, se non avete acceso puntualmente ricordatevi alle 21. Londra, Gentiloni incontra la prima ministra britannica May e sulla Brexit dice: non vogliamo un negoziato distruttivo, e ha definito irrealistica la prospettiva che al vertice di Taormina ci sia anche Putin. Confermata l'amicizia con la Gran Bretagna. Le turbulenze della giunta romana, ne abbiamo appena parlato, l'assessore Berdini verso l'uscita di scena, la sindaca Raggi dopo aver respinto ieri con riserva le dimissioni è in cerca del sostituto. Lavoro, il presidente dell'INPS Boeri spiega le nuove visite fiscali, 7 ore di reperibilità per tutti i lavoratori. Stati Uniti, tempesta di neve a New York, bloccate migliaia di voli, 50 milioni di persone interessate dalla bufera in tutta la costa est americana. Meningite, morta a Milano l'insegnante di 54 anni ricoverata ieri, ne parleremo tra pochissimo. Bologna, scontri, l'università, la polizia sgombra la biblioteca occupata. Tecnologia, addio al touchscreen, telefoni e PC saranno controllati da gesti grazie a una nuova generazione di LED. C'era un ascoltatore spiritosamente che diceva: touchscreen non esisterà più, lo dice una ricerca su Science, dice, nel senso che non si tocca nei negozi, questo è il cartello in vetrina. In realtà adesso parliamo, appunto, vi dicevo, di un argomento molto delicato. Perché c'è stato un nuovo caso di meningite, questa volta a Milano, vittima appunto un insegnante di 54 anni, morta all'ospedale San Paolo di Milano per una grave forma di meningite da meningococco. È morta dopo circa 24 ore dal suo ricovero, era insegnante all'Istituto Tecnico Curie Sraffa di Via Fratelli Zoia a Milano, nella zona ovest della città, era stata trasportata all'ospedale San Paolo. E però le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi e subito c'è stata una situazione compromissoria di tutti gli organi. L'assessore al welfare della regione Lombardia Giulio Gallera in una nota ha assicurato le famiglie dicendo che per gli studenti saranno messe in campo misure necessarie per garantire l'incolumità dei ragazzi. Allora ne voglio parlare con Giovanni Rezza, virologo, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Buonasera professor Rezza. Buonasera a voi. Allora, diciamo che si parla, sento parlare anche in questi giorni, di morti fisiologiche, nel senso che più o meno sono costanti nel corso degli anni, però forse c'è una percezione, almeno così dalle persone comuni, l'opinione pubblica, che ultimamente ci sia un aumento dei casi o se ne parla di più? Bisogna preoccuparsi, professor Rezza. Tra l'altro vedevo che a Milano e in Lombardia, ma in particolare a Milano, c'è stato un record di richieste di vaccini, tanto che chi si vuole vaccinare, diciamo così, col sistema sanitario nazionale, con la mutua, forse deve aspettare persino sino a dicembre, tante sono le richieste? Infatti c'è più attenzione sicuramente, c'è una maggiore percezione del rischio. Io credo sia dovuto a più fattori. Intanto in una zona delimitata della Toscana che va da Firenze al mare, lungo la Valle dell'Arno, abbiamo avuto per un paio d'anni, cioè nel 2015 e 2016, un aumento dei casi dovuti tutti ad un ceppo particolare di meningococco C, cosiddetto ST11 in gergo tecnico, che è un ceppo ipervirulento che ha dato diversi casi gravi. Dopodiché, sul finire dello scorso anno, voi lo ricorderete bene, ci sono stati due casi purtroppo letali in due giovani milanesi che frequentavano l'università, la stessa facoltà. Sì. Questo ha alzato il livello d'allarme, allora c'è stata una rincorsa dei singoli casi. Noi diciamo che la meningite, perlomeno quella da meningococco, è una forma, diciamo, clinica abbastanza rara, perché di fatto ne abbiamo circa 200 casi l'anno. Però se ci pensate bene, 200 casi l'anno vuol dire che in Italia almeno ogni due giorni un caso di meningite o sepsi, setticemia, infezione generalizzata, insomma, da meningococco c'è. In più dobbiamo considerare quel migliaio di casi di meningiti dovute ad altri germi, come per esempio lo pneumococco, Quindi è chiaro che se ogni caso viene evidenziato, noi ogni giorno abbiamo purtroppo di che parlare di meningite o di sepsi o da meningococco o da pneumococco, che sono comunque dei germi prevenibili, diciamo, tramite vaccinazione. E questo chiaramente fa sì che l'allarme cresca, cresca la percezione del rischio, cresca anche la domanda di vaccino. E spesso l'offerta in questi casi diventa inferiore rispetto alla domanda, nel senso che a differenza di quanto è avvenuto fino all'altro ieri, diciamo, che addirittura c'erano polemiche sui vaccini, adesso vediamo che c'è invece una corsa generalizzata e anche, diciamo, disordinata tante volte. No? Professor Rezza, quindi ci sta dicendo che non ci dobbiamo preoccupare, che appunto sono casi che ci sono sempre stati, che sono fisiologici, costanti negli anni, anche se leggevo questo dato, nel 2016 in Italia sono stati segnalati 178 casi di meningite da meningococco, la stessa forma aggressiva che ha colpito l'insegnante, certo, che è morta, e sono stati segnalati 17 decessi, un'incidenza in lieve aumento rispetto al triennio 2012-2014. Io non voglio considerarle fisiologiche, perché nessuna morte prematura è fisiologica. Sto solo dicendo che rispetto agli anni passati non abbiamo un cambiamento tale da poter farci allarmare più di quanto dovremmo esserlo normalmente, cioè poco per quanto riguarda l'età adulta, per quanto riguarda i bambini però e gli adolescenti dovremmo essere allarmati se non avessimo invece uno strumento importante che è la vaccinazione. Allora che succede? Che non è che siccome ci sono 180-200 casi l'anno noi possiamo stare tranquilli, no? Non dobbiamo allarmarci perché non c'è un aumento, però allo stesso tempo non è che possiamo non considerare il fenomeno, perché anche una sola morte, un solo caso grave per noi comunque sia è qualcosa che si può evitare, no? Tant'è vero che il nuovo piano di prevenzione vaccinale prevede, oltre alla vaccinazione contro il meningococco C a un anno di vita, che già era in atto, la vaccinazione contro il meningococco B nel primo anno di vita, perché questo è un meningococco che colpisce di più proprio i bambini molto piccoli, ma adesso è previsto anche la vaccinazione e il richiamo nell'adolescenza. Perché? Perché sono gli adolescenti quelli che noi diciamo sostengono la trasmissione, perché il meningococco è un batterio fragile che si trasmette soprattutto per contatto molto ravvicinato in locali chiusi, sovraffollati. Gli adolescenti frequentano scuole, locali, pub, discoteche e via dicendo. Se noi blocchiamo lì la trasmissione dell'infezione, ne ha un beneficio il resto della comunità, anche, professor Rezza, anche le persone più grandi. Quindi, anche gli adulti. Rispondendo ad Alberto, per esempio, dice: sono abbastanza stufo di gente che lancia allarmi sul web, se la ASL sostiene che non c'è allarme, ci credo, mi fido, eccetera. Ma un altro ascoltatore dice: la polio e altre malattie sono state sconfitte dai vaccini, perché non renderla obbligatoria? Abbiamo ancora poco meno di un minuto, professore. È da rendere obbligatoria o no questa vaccinazione? A chi consiglia di farla, quindi? Ai piccoli e agli adolescenti? L'obbligatorietà è una cosa ormai un po' obsoleta, noi cerchiamo di convincere, di persuadere la gente che è bene vaccinarsi. Io la consiglio, soprattutto la raccomando, non la consiglio, la raccomando per quelle età nelle quali è necessario, ovvero sia per i bambini a un anno di età, quella contro il meningococco C, nei bambini al di sotto dell'anno di età, quella contro il meningococco B, e agli adolescenti, tutti gli adolescenti, quella contro il meningococco C, meglio se fatta col vaccino quadrivalente. Chiaro, professor Giovanni Rezza, quindi dall'infanzia, diciamo, all'adolescenza. Speriamo, insomma, di sentirne parlare sempre meno. Grazie, professor Rezza. Grazie. Grazie a voi. Buona continuazione. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. E Roberta Giordano ve le ricorda in pochi secondi ora le più importanti. Londra, Gentiloni ha incontrato la prima ministra britannica May e sulla Brexit dice: non vogliamo un negoziato distruttivo, e ha definito irrealistica la prospettiva che al vertice di Taormina ci sia Putin. Intanto ha confermato l'amicizia con la Gran Bretagna. E poi le turbulenze della giunta romana, l'assessore Berdini verso l'uscita di scena. Però vedo adesso un'agenzia dove si dice che Paolo Berdini avrà un gruppo di affiancamento al suo assessorato. Questa è l'ipotesi a cui sta lavorando la sindaca Raggi, che sul caso però non ha ancora sciolto la riserva. E poi meningite, ne abbiamo appena parlato, è morta a Milano l'insegnante di 54 anni, ricoverata ieri. Avete sentito poco fa il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e i consigli che ha dato. Sanremo, terza serata per il festival, in primo piano ci sono le cover. Adesso lo spazio europeo. Youzone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Oggi entriamo dentro il Parlamento europeo e apriamo il dossier regolamento. Con il rapporto Corbett cambiano le regole del Parlamento. Approvato in sordina durante l'ultima seduta plenaria dell'Europarlamento di dicembre, la proposta dell'eurodeputato britannico Richard Corbett è una revisione del regolamento che vorrebbe andare verso una maggiore trasparenza e libertà tramite modifiche degli articoli e normative interne. Ma è davvero così? Ne parliamo con l'europarlamentare Isabella Dinolfi. Nuove regole per il Parlamento europeo. Cosa cambia rispetto a prima? Cambia poco in realtà, alcune cose sono state peggiorate. Il diavolo si nasconde sempre nel dettaglio, quindi con poche parole sono riusciti a cambiare il senso, per esempio per l'immunità che viene aumentata, o per esempio per i voti registrati, e credo che sia veramente uno scandalo perché il cittadino ha il diritto di sapere come vota il rappresentante che ha mandato lì in Parlamento, e adesso invece c'è un numero limitato di voti che si possono registrare, quindi per esempio immaginiamo il TTIP o altri importanti dossier, noi non sapremo come i deputati hanno votato. E la stessa cosa nel voto in commissione, gli emendamenti si possono presentare soltanto se sei membro titolare o sostituto, altrimenti devi chiedere il favore a qualcuno di cofirmartelo. Questo è limitante per il nostro lavoro. Quindi in pratica più o meno trasparenza? Assolutamente meno trasparenza, e pensate che per adesso, fino adesso, le sedute plenarie, le sedute di commissione erano tutte quante in streaming, soprattutto la plenaria dove ci sono i dibattiti più importanti. E che cosa succede adesso? Che il presidente può invece sospendere lo streaming e eliminare anche un intervento di un deputato ritenuto per esempio razzista oppure non buono, può eliminarlo addirittura dai verbali. Ecco, questo è assolutamente poco trasparente, perché bisogna sapere che cosa succede in plenaria. Immunità e lobby, in che direzione va il nuovo regolamento? Guarda, lo puoi immaginare, c'è stata una grande discussione su questo punto e purtroppo anche qui con poche parole si è torto il senso vero della battaglia che facevamo, cioè quello di sapere chi incontra il deputato, e abbiamo adesso un registro che non è obbligatorio ma è soltanto volontario, e quindi anche il lobbista dovrà dire se è d'accordo a comparire in questo registro, e soprattutto i deputati potrebbero scegliere di mettere alcuni nomi e non altri, quindi assolutamente non c'è trasparenza. Youzone, incontro con gli europarlamentari, in collaborazione con Euronet Plus. Ringrazio Silvia per il suo bel messaggio. Dice: il Festival di Sanremo è sicuramente un evento importante, ma le mie serate sono sempre perfetto notte. Alle 9 in punto mi collego con Radio 24 per ascoltare notizie condotte dal miglior giornalista del mondo. Un po' esagerata, Silvia, ma ti ringrazio. Intanto noi ci colleghiamo invece con la nostra inviata a Sanremo, Marta Cagnola. Cara Marta, buonasera. Buonasera. Beh, abbiamo vissuto proprio uno dei momenti più belli, secondo me, di questo Festival di Sanremo. Lo zecchino d'oro? Il valzer del moscerino? È stato molto molto carino, il zecchino d'oro è stato veramente tenero. Poi anche noi che ci facciamo sempre un po' i cinici, quando ci sono i bambini che cantano ci sciogliamo. No, questa è la serata delle cover, c'è stata veramente un'esibizione emozionantissima, tanti applausi in sala stampa e una standing ovation per Herman Mehta, che ha cantato Amara Modugno, terra mia, Modugno, in maniera assolutamente, non ho aggettivi, meravigliosa. È stato veramente incredibile. Io credo che è già uno dei candidati al premio della critica, Herman Mehta sicuramente, insieme a Fiorella Mannoia. Dopo questa cover si è guadagnato ancora più voti. Mette una seria ipoteca sulla possibilità di vincere il premio della critica, accidenti, o perlomeno di piazzarsi tra i primi. Purtroppo sono riuscita a seguire solo l'ultimo acuto, lunghissimo, e basta, non c'è stato modo, insomma, parlando di altri temi. Senti, quindi serata di cover, dicevamo, con i campioni in gara che cantano stasera le grandi canzoni di altri. altri interpreti, di cantautori, di cantanti, è un classico eccetera. Ormai della terza serata sanremese, la serata delle cover, una serata lunghissima. Io vi avverto, insomma, il dopo festival inizierà dopo l'una di notte, quindi sono veramente tante le cover, non sono tutti campioni perché, come sapete, tre per sera, quindi sei, non sono a rischio eliminazione, quindi sono solo 16, tra virgolette, solo 16 cantanti che si esibiscono. Hanno già cantato Chiara, che ha cantato Diamante di Zucchero con il maestro Mauro Pagani, mm-hmm. appunto Ermal Meta, Lodovica Comello, che ha fatto quasi un musical sulle Le Bolle Blu, e Albano, che ha fatto un omaggio al suo amico Adriano Celentano con Pregherò. Che a sua volta poi una cover, no? Pregherò, di Stand, certo, By Me, canzone... Certo, di Stand By Me, però, insomma, essendo lui amico di Adriano Celentano, era un po' un omaggio alla sua amicizia. Tra poco tocca proprio a Fiorella Mannoia, con Sempre per Sempre, quindi accidenti, due dei tra i più amati dalla critica si esibiscono proprio all'inizio di questa serata. Nel frattempo c'è stata anche una signora di 92 anni. E l'ho vista, chi era? Ho visto il video, allora, questa così, signora è una record woman, perché praticamente è un'ostetrica e ha fatto nascere migliaia di bambini. Ha 92 anni e l'ultimo bambino l'ha fatto nascere il mese scorso. È venuto a far nascere qualche bambino anche lì a Sanremo? Non è che ma tiene ancora il telefonino acceso, perché se hanno bisogno di lei di notte, lei corre. Caspita, dice, quanti anni hai? 92, ha detto? Anni. 92 anni, insomma, si vede che l'infanzia la mantiene giovane. Marta Cagnola, ti dobbiamo lasciare, poi vediamo se riusciamo a sentire qualche nota della Mannoia, ma non credo. Intanto, allora, buon festival, te, ci sentiamo domani. Ciao a Marta. Domani. Noi alle 22 ci aggiorniamo.